Good morning, Senator. Good morning, Mario. C'è un problema non da poco con cui si confronta l'America, quello del disavanzo. Ne ho parlato, direi, con una delle massime autorità in materia, il senatore Alan Simpson. So, you see a solution before November 6th? No, but I see a solution between November 6th and December 31st. It will be chaotic, but it will be a solution. Might be temporary, but it'll be a solution. Chiedo al senatore Simpson se ci sarà una soluzione al problema del disavanzo pubblico americano. Ricordiamolo, il 10% del prodotto interno lordo americano e il debito raggiunge ormai il 100% del PIL. Sono cifre di proporzioni europee e dunque molto molto preoccupanti, eppure i mercati sembrano tranquilli. Perché? Ecco, la risposta ce la dà proprio Simpson. Intanto voglio ricordarvi chi è Simpson. Alan Simpson con Erskine Bowles è stato incaricato dal presidente Barack Obama e dalle commissioni bipartitiche del Congresso di scrivere un rapporto che poi è stato presentato, un rapporto di 62 pagine, con raccomandazione per la riduzione del disavanzo pubblico americano per rimettere ordine nei conti degli Stati Uniti d'America. Il rapporto è stato molto severo, alla fine la politica, come sempre succede, ha prevalso. Essendo vicino l'anno elettorale, questo 2012, i repubblicani e democratici hanno deciso di non risolvere il problema, ma di rimandare la soluzione a più tardi, a dopo le elezioni. E dunque il messaggio che dà Simpson, che è poi il messaggio condiviso dai mercati, è che non ci sarà una soluzione al disavanzo pubblico americano prima delle elezioni, ma ci sarà una soluzione tra il 6 di novembre e il 31 di dicembre, cioè fra il giorno delle elezioni e la fine dell'anno, prima che si vada a insediare il nuovo Parlamento. Questa è una linea condivisa fra molti degli operatori di mercato.